Parte quarta. Capitolo quinto di Mastro Don Gesualdo. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di pubblico dominio. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Isairon. Mastro Don Gesualdo di Giovanni Verga. Parte quarta. Capitolo quinto. Parve a Don Gesualdo d'entrare in un altro mondo, allorché fu in casa della figliuola. Era un palazzone così vasto che ci si smarriva dentro. Dappertutto cortinaggi e tappeti che non si sapeva dove mettere i piedi, sin dallo scalone di marmo. E il portiere, un pezzo grosso addirittura, con tanto di barba e di soprabitone, vi squadrava dall'alto al basso, accigliato, se per disgrazia avevate una faccia che non lo persuadesse, e vi gridava dietro dal suo gabbione: «C'è lo stoino per pulirsi le scarpe!» Un esercito di mangiapane, staffieri e camerieri, che sbadigliavano a bocca chiusa, camminavano in punta di piedi e vi servivano senza dire una parola o fare un passo di più, con tanta degnazione da farvene passar la voglia. Ogni cosa regolata a suon di campanello, con un cerimoniale di messa cantata, per avere un bicchier d'acqua o per entrare nelle stanze della figliuola. Lo stesso duca, all'ora di pranzo, si vestiva come se andasse a nozze. Il povero Don Gesualdo, nei primi giorni, s'era fatto animo per contentare la figliuola e s'era messo in gala anche lui per venire a tavola, legato e impastoiato, con un ronzio nelle orecchie, le mani esitanti, l'occhio inquieto, le fauci strette da tutto quell'apparato, dal cameriere che gli contava i bocconi dietro le spalle e di cui ogni momento vedevasi il guanto di cotone allungarsi a tradimento e togliervi la roba dinanzi. L'intimidiva pure la cravatta bianca del genero, le credenze alte e scintillanti come altari, e la tovaglia finissima, che s'aveva sempre paura di lasciarvi cadere qualche cosa. Tanto che macchinava di prendere a quattr'occhi la figliuola e dirle il fatto suo. Il duca, per fortuna, lo tolse d'impiccio, dicendo ad Isabella, dopo il caffè, col sigaro in bocca e il capo appoggiato alla spalliera del seggiolone: «Mia cara, d'oggi innanzi credo che sarebbe meglio far servire papà nelle sue stanze. Avrà le sue ore, le sue abitudini. Poi, col regime speciale che richiede il suo stato di salute...» «Certo, certo», balbettò Don Gesualdo. «Stavo per dirvelo, sarei più contento anch'io. Non voglio essere d'incomodo.» «No, non dico per questo. Voi ci fate ogni modo piacere, caro mio.» Egli si mostrava proprio un buon figliuolo col suocero. Gli riempiva il bicchierino, lo incoraggiava a fumare un sigaro, lo assicurava infine che gli trovava miglior cera da che era arrivato a Palermo, e il cambiamento d'aria e una buona cura l'avrebbero guarito del tutto. Poi gli toccò anche il tasto degli interessi. Mostravasi giudizioso, cercava il modo e la maniera d'avere il piacere di tenersi il suocero in casa un pezzo, senza timore che gli affari di lui andassero a rotta di collo. Una procura generale, una specie d'alter ego. Don Gesualdo si sentì morire il sorriso in bocca. Non c'era che fare. Il genero, nel viso, nelle parole, sì nel tono della voce, anche quando voleva fare l'amabile e pigliarvi pel bello, aveva qualcosa che vi respingeva indietro e vi faceva cascar le braccia. Uno che avesse voluto buttargliele al collo, proprio come un figlio, e dirgli: «Te, per la buona parola, adesso. Pazienza per il resto. fai quello che vuoi. Talché don Gesualdo scendeva raramente dalla figliuola. Ci si sentiva a disagio col signor genero. Temeva sempre che ripigliasse l'antifona dell'alter ego. Gli mancava l'aria, lì, fra tutti quei ninnoli. Gli toccava chiedere quasi licenza al servitore che faceva la guardia in anticamera per poter vedere la sua figliuola e scapparsene appena giungeva qualche visita. L'avevano collocato in un quartierino al piano di sopra, poche stanze che chiamavano la foresteria, dove Isabella andava a vederlo ogni mattina in veste da camera, spesso senza neppur mettersi a sedere. Amorevole e premurosa, è vero, ma in un certo modo che al pover'uomo sembrava d'essere davvero un forestiero. Essa, alcune volte, era pallida così che pareva non avesse chiuso occhio neppur lei. Aveva una certa ruga fra le ciglia, qualcosa negli occhi, che a lui, vecchio e pratico del mondo, non andava punto a genio. Avrebbe voluto pigliarsi anche lei fra le braccia, stretta stretta, e chiederle, piano in un orecchio, «Cos'hai? Dimmelo. Confidati a me, che dei guai ne ho passati tanti, e non posso tradirti». Ma anch'essa ritirava le corna come fa la lumaca. Stava chiusa, parlava di rado anche della mamma. Quasi il chiodo le fosse rimasto lì, fisso, accusando lo stomaco peloso dei Trao, che vi chiudevano il rancore e la diffidenza, implacabili. Perciò, lui, doveva ricacciare indietro le parole buone e anche le lagrime, che gli si gonfiavano grosse grosse dentro, e tenersi per sé i propri guai. Passava i giorni malinconici dietro l'invetriata a veder strigliare i cavalli e lavare le carrozze nella corte vasta quanto una piazza. Degli stallieri in manica di camicia e coi piedi nudi negli zoccoli cantavano, vociavano, barattavano delle chiacchiere e degli strambotti coi domestici, i quali perdevano il tempo alle finestre col grembialone sino al collo o in panciotto rosso, strascicando svogliatamente uno strofinaccio fra le mani ruvide, con le barzellette sguaiate, dei musi beffardi di mascalzoni ben rasi e ben pettinati, che sembravano togliersi allora una maschera. I cocchieri, poi, degli altri pezzi grossi, stavano a guardare, col sigaro in bocca e le mani nelle tasche delle giacchette attillate, discorrendo di tanto in tanto col guardaportone, che veniva dal suo casotto a fare una fumatina, accennando con dei segni e dei versacci alle cameriere che si vedevano passare dietro le invetriate dei balconi, oppure facevano capolino provocanti, sfacciate, a buttar giù delle parolacce e delle risate di male femmine con certi visi da Madonna. Don Gesualdo pensava intanto quanti bei denari dovevano scorrere per quelle mani, tutta quella gente che mangiava e beveva alle spalle di sua figlia, sulla dote che egli le aveva dato, su Lalia e su Donninga, le belle terre che aveva covato con gli occhi tanto tempo, sera e mattina, e misurato col desiderio, e sognato la notte, e acquistato, palmo a palmo, giorno per giorno, togliendosi il pane di bocca, le povere terre nude che bisognava arare e seminare, i mulini, le case, i magazzini che aveva fabbricato con tanti stenti, con tanti sacrifici, un sasso dopo l'altro. La canziria, Mangalavite, la casa, tutto, tutto sarebbe passato per quelle mani. Chi avrebbe potuto difendere la sua roba dopo la sua morte? Ahimè, povera roba, chi sapeva quel che era costata? Il signor Duca, lui, quando usciva di casa, a testa alta, col sigaro in bocca e il pomo del bastoncino nella tasca del pastrano, fermavasi appena a dare un'occhiata ai suoi cavalli, ossequiato come il Santissimo Sacramento. Le finestre si chiudevano in fretta. Ciascuno correva al suo posto, tutti a capo scoperto, il guardaportone col berretto gallonato in mano, ritto dinanzi alla sua vetrina, gli stallieri immobili accanto alla groppa delle loro bestie, con la striglia appoggiata all'anca. Il cocchiere maggiore, un signorone, piegato in due a passare la rivista e prendere gli ordini. Una commedia che durava 5 minuti. Dopo, appena lui voltava le spalle, ricominciava il chiasso e la baraonda. Dalle finestre, dalle arcate del portico che metteva alle scuderie, dalla cucina che fumava e fiammeggiava sotto il tetto, piena di sguatteri vestiti di bianco. Quasi il palazzo fosse abbandonato in mano a un'orda famelica, pagata apposta per scialarsela sino al tocco della campana che annunziava qualche visita. Un'altra solennità, anche quella. La duchessa, certi giorni, si metteva in pompa magna ad aspettare le visite come un'anima di purgatorio. Arrivava di tanto in tanto una carrozza fiammante, passava come un lampo dinanzi al portinaio, che aveva appena il tempo di cacciare la pipa nella falda del soprabito e di appendersi alla campana. Delle dame e degli staffieri in gala sguisciavano frettolosi sotto l'alto vestibolo e dopo 10 minuti tornavano ad uscire per correre altrove a rompicollo, proprio della gente che sembrava presa a giornata per questo. Lui, invece, passava il tempo a contare le tegole di rimpetto, a calcolare, con l'amore e la sollecitudine del suo antico mestiere, quel che erano costate le finestre scolpite, i pilastri massicci, gli scalini di marmo, quei mobili sontuosi, quelle stoffe, quella gente, quei cavalli che mangiavano, e inghiottivano il denaro come la terra inghiottiva le semente, come beveva l'acqua, senza renderlo però, senza dar frutto, sempre più affamati, sempre più divoranti, simili a quel male che gli consumava le viscere. Quante cose si sarebbero potute fare con quel denaro? Quanti buoni colpi di zappa, quanto sudore di villani si sarebbero pagati? Delle fattorie, dei villaggi interi da fabbricare, delle terre da seminare, a perdita di vista. E un esercito di mietitori a giugno, del grano da raccogliere a montagne, del denaro a fiumi da intascare. Allora gli si gonfiava il cuore al vedere i passeri che schiamazzavano su quelle tegole, il sole che moriva sul cornicione senza scendere mai giù sino alle finestre. Pensava alle strade polverose, a bei campi dorati e verdi, al cinguettio lungo le siepi, alle belle mattinate che facevano fumare i solchi. Oramai, oramai. Adesso era chiuso fra quattro mura, col brusio incessante delle città negli orecchi, lo scampanio di tante chiese che gli martellava sul capo, consumato lentamente dalla febbre, roso dai dolori che gli facevano mordere il guanciale, a volte, per non seccare il domestico che sbadigliava nella stanza accanto. Nei primi giorni, il cambiamento, l'aria nuova, forse anche qualche medicina indovinata, per sbaglio, avevano fatto il miracolo, gli avevano fatto credere di potersi guarire. Dopo era ricaduto peggio di prima. Neppure i migliori medici di Palermo avevano saputo trovare rimedio a quella malattia scomunicata, tal quale come i medici ignoranti del suo paese, e costavano di più, per giunta. Venivano l'uno dopo l'altro, dei dottoroni che tenevano carrozza e si facevano pagare anche il servitore che lasciavano in anticamera. L'osservavano, lo tastavano, lo interrogavano quasi avessero da fare con un ragazzo o un contadino. Lo mostravano agli apprendisti come Zanni fa vedere alla fiera il gallo con le corna, oppure la pecora con due code, facendo la spiegazione con parole misteriose. Rispondevano appena, a fior di labbra, se il povero diavolo si faceva lecito di voler sapere che malattia covava in corpo. Quasi egli non avesse che vederci con la sua pelle. Gli avevano fatto comprare anch'essi un'intera farmacia, dei rimedi che si contavano a gocce, come l'oro, degli unguenti che si spalmavano con un pennello e aprivano delle piaghe vive, dei veleni che davano delle coliche più forti e mettevano come del rame nella bocca, dei bagni e dei sudoriferi che lo lasciavano sfinito, senza forza di muovere il capo, vedendo già l'ombra della morte dappertutto. «Signori miei, a che gioco giochiamo?» voleva dire. «Allora, se è sempre la stessa musica, me ne torno al mio paese». almeno laggiù lo rispettavano per i suoi denari e lo lasciavano sfogare se pretendeva di sapere come li spendeva per la sua salute, mentre qui gli pareva d'essere all'ospedale, curato per carità. Doveva stare in suggezione anche del genero che veniva ad accompagnare i pezzi grossi chiamati a consulto. Parlavano sottovoce fra di loro, voltandogli le spalle, senza curarsi di lui, che aspettava a bocca aperta una parola di vita o di morte. Oppure gli facevano l'elemosina di una risposta che non diceva niente, di un sorrisetto che significava addirittura «Arrivederci in paradiso, buon uomo!». C'erano persino di quelli che gli voltavano le spalle, come si tenessero offesi. Egli indovinava che doveva essere qualcosa di grave, al viso stesso che facevano i medici, alle alzate di spalle scoraggianti, alle lunghe fermate col genero e al borbottio che durava un pezzo fra di loro in anticamera. Infine non si tenne più. Un giorno che quei signori tornavano a ripetere la stessa pantomima, ne afferrò uno per la falda prima d'andarsene. «Signor dottore, parlate con me! Sono io il malato, infine! Non sono un ragazzo! Voglio sapere di che si tratta, giacché si giuoca sulla mia pelle!». Colui, invece, cominciò a fare una scenata col duca, quasi gli si fosse mancato di rispetto in casa sua. Ci vuole del bello e del buono per calmarlo, e perché non piantasse lì malato e malattia una volta per sempre. Don Gesualdo udì che gli dicevano sottovoce: «Compatitelo, non conosce gli usi, è un uomo primitivo, nello stato di natura». Sicché il poveraccio dovette mangiar giù tutto e rivolgersi alla figliuola per sapere qualche cosa. «Che hanno detto i medici? Dimmi la verità. È una malattia grave? Di'». E come le vide gonfiare negli occhi le lacrime, malgrado che tentasse di cacciarle indietro, infuriò. Non voleva morire. Si sentiva un'energia disperata ad alzarsi e andarsene via da quella casa maledetta. «Non dico per te. Hai fatto di tutto. Non mi manca nulla. Ma io non ci sono avvezzo, vedi? Mi par di soffocare qui dentro». Neppur lei ci stava bene in quella casa. Il cuore glielo diceva al povero padre. Sembrava che fossero in perfetto accordo, marito e moglie. Discorrevano cortesemente fra di loro, dinanzi ai domestici. Il duca passava quasi sempre una mezz'oretta nel salottino della moglie dopo pranzo. Andava a darle il buongiorno ogni mattina, prima della colazione. Per i morti, a Natale, per la festa di Santa Rosalia e nella ricorrenza del suo onomastico o dell'anniversario del loro matrimonio. Le regalava dei gioielli che essa aveva fatto ammirare al babbo, in prova del bene che le voleva il marito. «Ah, capisco, deve essere costata una bella somma, però non sei contenta. Si vede benissimo che non sei contenta». Leggeva, in fondo agli occhi di lei, un altro segreto, un'altra ansietà mortale, che non la lasciava neppure quando era vicino a lui, che le dava dei sussulti allorché udiva un passo all'improvviso, o suonava ad ora insolita la campana che annunziava il duca, e dei pallori mortali, certi sguardi rapidi in cui gli pareva di scorgere un rimprovero. Alcune volte l'aveva vista giungere correndo, pallida, tremante come una foglia, balbettando delle scuse. Una notte, tardi, mentre era in letto coi suoi guai, aveva udito un'agitazione insolita nel piano di sotto, degli usci che sbattevano, la voce della cameriera che strillava, quasi chiamasse aiuto, una voce che lo fece rizzare spaventato sul letto. Ma sua figlia il giorno dopo non gli volle dir nulla, sembrava anzi che le sue domande li infastidissero. Misuravano fino le parole e i sospiri in quella casa, ciascuno chiudendosi in corpo i propri guai. Il duca col sorriso freddo, Isabella con la buona grazia che le aveva fatto insegnare in collegio. Le tende e i tappeti soffocavano ogni cosa. Però, quando se li vedeva dinanzi a lui, marito e moglie, così tranquilli, che nessuno avrebbe sospettato quel che covava sotto, si sentiva freddo nella schiena. Del resto, che poteva farci? ne aveva abbastanza dei suoi guai. Il peggio di tutti stava lui, che aveva la morte sul collo. Quando egli avrebbe chiuso gli occhi, tutti gli altri si sarebbero data pace, come egli stesso s'era data pace dopo la morte di suo padre e di sua moglie. Ciascuno tira l'acqua al suo mulino. Ne aveva data tanta dell'acqua per far macinare gli altri. Speranza, Diodata, tutti gli altri. Un vero fiume. Anche lì, in quel palazzo di cuccagna, era tutto opera sua. E intanto non trovava riposo fra i lenzuoli di tela fine, sui guanciali di piume. Soffocava fra i cortinaggi e le belle stoffe di seta che gli toglievano il sole. I denari che spendeva per far andare la baracca, i rumori della corte, il cameriere che gli tenevano dietro l'uscio a contargli i sospiri, insino al cuoco che gli preparava certe brode insipide che non riusciva a mandar giù. Ogni cosa la tossicava. Non digeriva più neanche i bocconi prelibati. Erano tanti chiodi nelle sue carni. «Mi lasciano morir di fame, capisci?» lagnavasi con la figliuola, alle volte con gli occhi accesi dalla disperazione. «Non è per risparmiare. Sarà della roba buona, ma il mio stomaco non c'è avvezzo. Rimandatemi a casa mia. Voglio chiudere gli occhi dove son nato». L'idea della morte ora non lo lasciava più. Si tradiva nelle domande insidiose, nelle occhiate piene di sospetto, anche nella preoccupazione affannosa di dissimularla in vari modi. Adesso non aveva più suggezione di nessuno e afferrava chi gli capitava per domandare. «Voglio sapere la verità, signori cari, per regolare le mie cose, i miei interessi». E se cercavano di rassicurarlo, dicendogli che non c'era nulla di grave, di serio, per il momento, egli tornava ad insistere, ad appuntare gli occhi, furbo, per scavare terreno. «È che ho tanto da fare laggiù, al mio paese, signori miei. Capite? Non posso mica darmi bel tempo io. Bisogna che pensi a tutto, se no c'è la rovina». Poi spiegava di dove gli era venuto quel male. «Sono stati dispiaceri, i bocconi amari. Ne ho avuti tanti. Vedete, me ne è rimasto il lievito qui dentro». Era tornato diffidente. Temeva che non vedessero l'ora di levarselo di torno, per risparmiar la spesa e impadronirsi del fatto suo. Cercava di rassicurare tutti quanti, col sorriso affabile. «Non guardate a spesa. Posso pagare. Mio genero lo sa. Tutto ciò che occorre. Non saranno denari persi. Se campo, ne guadagno ancora tanti dei denari». Con gli occhi lucenti cercava di ingraziarsi la sua figliola stessa. Sapeva che la roba, ahimè, mette l'inferno anche fra padri e figli. La pigliava in parola, balbettava, accarezzandola come quando era bambina, spiandola di sottecchi intanto col cuore alla gola. «Qui cosa mi manca? Ho tutto per guarire. Tutto quello che ci vorrà spenderemo, non è vero?» Ma il male lo vinceva e gli toglieva ogni illusione. In quei momenti di scoraggiamento il povero uomo pensava a voce alta. «A che mi serve? A che giova tutto ciò? Neppure a tua madre è giovato». Un giorno venne a fargli visita l'amministratore del duca, officioso, tutto gentilezze come il suo padrone quando apparecchiavasi a dare la botta. Si informò della salute, gli fece le condoglianze per la malattia che tirava in lungo. Capiva bene lui, un uomo d'affari come Don Gesualdo. Che dissesto, quanti danni, le conseguenze, un'azienda così vasta, senza nessuno che potesse occuparsene sul serio. Infine offrì di incaricarsene lui, per l'interesse che portava alla casa, alla signora duchessa. Del signor duca era buono servo da tanti anni, sicché prendeva a cuore anche gli interessi di Don Gesualdo. Proponeva d'alleggerirlo d'ogni carico, finché si sarebbe guarito, se credeva, investendolo per procura. A misura che colui sputava fuori il veleno, Don Gesualdo andava scomponendosi in viso. Non fiatava, stava ad ascoltarlo, con gli occhi ben aperti, e intanto ruminava come trarsi d'impiccio. A un tratto si mise a urlare e ad agitarsi quasi fosse colto di nuovo dalla colica, quasi fosse giunta l'ultima sua ora, e non udisse e non potesse più parlare. Balbettò solo sbagliando. «Chiamatemi mia figlia! Voglio vedere mia figlia!» Ma appena corse lei, spaventata, egli non aggiunse altro. Si chiuse in se stesso a pensare come uscire dal malo passo, torvo, diffidente, voltandosi in là per non lasciarsi scappare qualche occhiata che lo tradisse. Soltanto ne piantò una lunga lunga, addosso a quel galantuomo che se ne andava rimminchionito. Infine, a poco, finse di calmarsi. Bisognava giocare d'astuzia per uscire da quelle grinfie. Cominciò a far segno di sì e di sì col capo, fissando gli occhi amorevoli in volto alla figliuola allibita, col sorriso paterno, il fare bonario. «Sì, voglio darvi in mano tutto il fatto mio, per alleggerirmi il carico. Mi farete piacere, anzi, nello stato in cui sono. Voglio spogliarmi di tutto. Già ho poco da vivere. Rimandatemi a casa mia per fare la procura, la donazione, tutto ciò che vorrete. Lì conosco il notaro, so dove metter le mani. Ma prima rimandatemi a casa mia, tutto quello che vorrete, poi.» «Ah, babbo, babbo!» esclamò Isabella con le lacrime agli occhi. Ma egli sentivasi morire di giorno in giorno. Non poteva più muoversi. Sembravagli che gli mancassero le forze d'alzarsi dal letto e andarsene via perché gli toglievano il denaro, il sangue delle vene, per tenerlo sotto mano prigioniero. Sbuffava, smaniava, urlava di dolore e di collera, e poi ricadeva sfinito, minaccioso, con la schiuma alla bocca, sospettando di tutto, spiando prima le mani del cameriere se beveva un bicchiere d'acqua, guardando ciascuno negli occhi per scoprire la verità, per leggervi la sua sentenza, costretto a ricorrere agli artifici per sapere qualcosa di quel che gli premeva. «Chiamatemi quell'uomo dell'altra volta. Portatemi le carte da firmare. È giusto, ci ho pensato su. Bisogna incaricare qualcuno dei miei interessi, finché guarisco.» Ma adesso coloro non avevano fretta. Gli promettevano sempre, dall'oggi al domani. Lo stesso duca si strinse nelle spalle, come a dire che non serviva più. Un terrore più grande, più vicino, della morte lo corse a quell'indifferenza. Insisteva, voleva disporre della sua roba come per attaccarsi alla vita, per far atto d'energia e di volontà. Voleva far testamento, per dimostrare a se stesso che era tuttora il padrone. Il duca, finalmente, per chetarlo, gli disse che non occorreva, poiché non c'erano altri eredi. Isabella era figlia unica. «Ah?» rispose lui. «Non occorre? È figlia unica?» E tornò a ricoricarsi, lugubre. Avrebbe voluto rispondergli che ce n'erano ancora, degli eredi nati prima di lei, sangue suo stesso. Gli nascevano dei rimorsi, con la bile. Faceva dei brutti sogni. Delle brutte facce pallide e rose gli apparivano la notte, delle voci, degli scossoni lo facevano svegliare di soprassalto, in un mare di sudore, col cuore che martellava forte. Tanti pensieri gli venivano adesso, tanti ricordi, tante persone gli sfilavano dinanzi, Bianca, Diodata, degli altri ancora. Quelli non l'avrebbero lasciato morire senza aiuto. Volle un altro consulto, i migliori medici. Ci dovevano essere dei medici per suo male, a saperli trovare, a pagarli bene. Il denaro l'aveva guadagnato apposta lui. Al suo paese gli avevano fatto credere che, rassegnandosi a lasciarsi aprire il ventre, ebbene, sì, sì. Aspettava il consulto, il giorno fissato, sin dalla mattina, raso e pettinato, seduto nel letto con la faccia color di terra, ma fermo e risoluto. Ora voleva vederci chiaro nei fatti suoi. «Parlate liberamente, signori miei, tutto ciò che si deve fare si farà. Gli batteva un po' il cuore, sentiva un formicolio come di spasimo anticipato tra i capelli, ma era pronto a tutto, quasi scoprivasi il ventre, perché si servissero pure. Se un albero ha la cancrena addosso, cos'è infine? Si taglia il ramo. Adesso invece i medici non volevano neppure operarlo. Avevano degli scrupoli, dei ma e dei se. Si guardavano fra di loro e biasciavano mezze parole. Uno temeva la responsabilità, un altro osservò che non era più il caso, oramai. Il più vecchio, una fascia di malaugurio che vi faceva morire prima del tempo, come vero Dio, s'era messo già a confortare la famiglia, dicendo che sarebbe stato inutile anche prima, con un male di quella sorta. «Ah!» rispose Don Gesualdo, fattosi rauco a un tratto. «Ah! Ho inteso!» E si lasciò scivolare pian piano giù disteso nel letto, trafelato. Non aggiunse altro, per allora. Stette zitto a lasciarli finire di discorrere. Soltanto voleva sapere se era venuto il momento di pensare ai casi suoi. Non c'era più da scherzare adesso. Aveva tanti interessi gravi da lasciare sistemati. «Taci! Taci!» borbottò rivolta alla figliuola che gli piangeva al lato. Con la faccia cadaverica, con gli occhi simili a due chiodi in fondo alle orbite livide, aspettava la risposta che gli dovevano infine. Non c'era da scherzare. «No, no! C'è tempo. Simili malattie durano anni e anni. Però, certo, premunirsi, sistemare gli affari a tempo, non sarebbe male.» «Ho inteso», ripeté Don Gesualdo col naso fra le coperte. «Vi ringrazio, signori miei.» Un nuvolo gli calò sulla faccia e vi rimase. Una specie di rancore, qualcosa che gli faceva tremare le mani e la voce, e trapelava dagli occhi socchiusi. Fece segno al genero di fermarsi. Lo chiamò dinanzi al letto, a quattro occhi, da solo a solo. «Finalmente, questo notaro. Verrà, sì o no? Devo far testamento. Ho degli scrupoli di coscienza. Sì, signore. Sono il padrone, sì o no?» «Ah, ah, stai ad ascoltare anche tu?» Isabella andò a buttarsi ginocchioni ai piedi del letto, col viso fra le materasse, singhiozzando e disperandosi. Il genero locchettava dall'altra parte. Ma sì, quando vorrete, come vorrete. Non c'è bisogno di far delle scene. Ecco in che stato avete messo vostra figliuola.» «Va bene», seguitò a borbottare lui. «Va bene, ho capito.» E volse le spalle tal quale suo padre, buon'anima. Appena fu solo, cominciò a muggire come un bue, col naso a muro, ma poi, se veniva gente, stava zitto. Covava dentro di sé il male e l'amarezza. Lasciava passare i giorni. Pensava ad allungarseli piuttosto, a guadagnare almeno quelli, uno dopo l'altro, così come venivano. Pazienza. Finché c'è fiato, c'è vita. A misura che il fiato gli andava mancando, a poco, acconciavasi pure ai suoi guai. Ci faceva il callo. Lui aveva le spalle grosse e avrebbe tirato in lungo, mercé la sua pelle dura. Alle volte provava anche una certa soddisfazione, fra sé e sé, sotto il lenzuolo, pensando al viso che avrebbero fatto il signor Duca e tutti quanti, al vedere che lui aveva la pelle dura. Era arrivato ad affezionarsi ai suoi malanni. Li ascoltava, li carezzava, voleva sentirseli lì, con lui, per tirare innanzi. I parenti ci avevano fatto il callo anch'essi. Avevano saputo che quella malattia durava anni ed anni e si erano acchetati. Così va il mondo, purtroppo, che passato il primo bollore ciascuno tira innanzi per la sua via e bada agli affari propri. Non si lamentava neppure, non diceva nulla, da villano malizioso, per non sprecare il fiato, per non lasciarsi sfuggire quel che non voleva dire. Solamente gli scappavano di tanto in tanto delle occhiate che significavano assai, al veder la figliuola che gli veniva dinanzi con quella faccia desolata. E poi teneva il sacco al marito, e lo incarcerava lì sotto i suoi occhi col pretesto dell'affezione, per covarselo, per il timore che non gli giocasse qualche tiro nel testamento. Indovinava che teneva degli altri guai nascosti lei, e alle volte aveva la testa altrove, mentre suo padre stava con la morte sul capo. Si rodeva dentro a misura che peggiorava. Il sangue era diventato tutto veleno, ostinavasi sempre più taciturno, implacabile, col viso al muro, rispondendo solo coi grugniti come una bestia. Finalmente si persuase che era giunta l'ora e si apparecchiò a morire da buon cristiano. Isabella era venuta subito a tenergli compagnia. Egli fece forza coi gomiti e si rizzò a sedere sul letto. «Senti», le disse. «Ascolta», era turbato in viso, ma parlava calmo. Teneva gli occhi fissi sulla figliuola e accennava col capo. Essa gli prese la mano e scoppiò a singhiozzare. «Taci», riprese. «Finiscila. Se cominciamo così, non si fa nulla». Ansimava perché aveva il fiato corto ed anche per l'emozione. Guardava intorno, sospettoso, e seguitava ad accennare del capo, in silenzio, col respiro affannato. Ella pure volse verso l'uscio gli occhi pieni di lacrime. Don Gesualdo alzò la mano scarna e trinciò una croce in aria per significare che era finita e perdonava tutti prima d'andarsene. «Senti, ho da parlarti, intanto che siamo soli». Ella gli si buttò addosso, disperata, piangendo, singhiozzando di no, con le mani erranti che l'accarezzavano. L'accarezzò anche lui sui capelli, lentamente, senza dire una parola. Di lì a un po' riprese. «Ti dico di sì, non sono un ragazzo. Non perdiamo tempo inutilmente». Poi gli viene una tenerezza. «Ti dispiace, eh? Ti dispiace a te pure?» La voce gli si era intenerita anch'essa. Gli occhi tristi si erano fatti più dolci e qualcosa gli tremava sulle labbra. «Ti ho voluto bene. Anch'io. Quanto ho potuto. Come ho potuto. Quando uno fa quello che può». Allora l'attirò a sé lentamente, quasi esitando, guardandola fissa per vedere se voleva lei pure, e l'abbracciò stretta stretta, posando la guancia ispida su quei bei capelli fini. «Non ti fa male, di, come quando eri bambina». Gli vennero insieme delle altre cose sulle labbra, delle ondate di amarezza e di passione, quei sospetti odiosi che dei bricconi, nelle questioni di interessi, avevano cercato di mettergli in capo. Si passò la mano sulla fronte per ricacciarli indietro e cambiò discorso. «Parliamo dei nostri affari. Non ci perdiamo in chiacchiere, adesso». Essa non voleva. Sbagnava per la stanza. Si cacciava le mani nei capelli. Diceva che gli lacerava il cuore, che gli pareva un malaugurio, quasi suo padre stesse per chiudere gli occhi. «Ma no, parliamone», insisteva lui. «Sono discorsi seri. Non ho tempo da perdere adesso». Il viso gli si andava oscurando. Il rancore antico gli corruscava negli occhi. «Allora vuol dire che non te ne importa nulla, come tuo marito». Vedendola poi rassegnata ad ascoltare, seduta a capochino accanto al letto, cominciò a sfogarsi dei tanti crepacuori che gli avevano dati, lei e suo marito, con tutti quei debiti. Le raccomandava la sua roba, di proteggerla, di difenderla. «Piuttosto, farti tagliare la mano, vedi? Quando tuo marito torna a proporti di firmare delle carte, lui non sa cosa vuol dire». Spiegava quel che gli erano costati, quei poderi, la lia, la canziria. Li passava tutti in rassegna amorosamente. Ramentava come erano venuti a lui, uno dopo l'altro, a poco, le terre seminative, i pascoli, le vigne. Li descriveva minutamente, zolla per zolla, con le qualità buone o cattive. Gli tremava la voce, gli tremavano le mani, gli si accendeva tuttora il sangue in viso. gli spuntavano le lagrime agli occhi. Mangalavite, sai, la conosci anche tu. Ci sei stata con tua madre. 40 salme di terreni, tutti alberati. Ti rammenti? I belli aranci. Tua madre, poveretta, ci si rinfrescava la bocca negli ultimi giorni. 300 migliaia all'anno ne davano, circa 300 onze. E la Salonia? Dei seminati d'oro, della terra che fa miracoli. Benedetto sia tuo nonno che vi lasciò le ossa. Infine, per la tenerezza, si mise a piangere come un bambino. Basta, disse poi. Ho da dirti un'altra cosa. Senti. La guardò fissamente negli occhi pieni di lacrime, per vedere l'effetto che avrebbe fatto la sua volontà. Le fece segno di accostarsi ancora, di chinarsi su lui supino che esitava e cercava le parole. Senti, ho degli scrupoli di coscienza. Vorrei lasciare qualche legato a delle persone verso cui ho degli obblighi. Poca cosa. Non sarà molto per te che sei ricca. Farei conto di essere una regalia che tuo padre ti domanda, in punto di morte, se ho fatto qualcosa anch'io per te. Ah, babbo, babbo, che parole! Singhiozzava Isabella. Lo farai, eh? Lo farai, anche se tuo marito non volesse. Le prese le tempie fra le mani e le sollevò il viso per leggerle negli occhi se l'avrebbe ubbidito, per farle intendere che gli premeva proprio e che ci aveva quel segreto in cuore, e mentre la guardava a quel modo gli parve di scorgere anche lui quell'altro segreto, quell'altro cruccio nascosto in fondo agli occhi della figliuola, e voleva dirle delle altre cose, voleva farle altre domande in quel punto, aprirle il cuore come al confessore e leggere nel suo. Ma ella chinava il capo, quasi avesse indovinato, con la ruga ostinata dei trao fra le ciglia, tirandosi indietro, chiudendosi in sé, superba, coi suoi guai e il suo segreto. E lui allora sentì tornare Motta. Com'essa era trao, diffidente, ostile, di un'altra pasta. Allentò le braccia e non aggiunse altro. Ora fammi chiamare un prete, terminò con un altro tono di voce. Voglio fare i miei conti con Domeneddio. Durò ancora qualche altro giorno così, fra alternative di meglio e di peggio. Sembrava anzi che cominciasse a riaversi un poco, quando, a un tratto, una notte, peggiorò rapidamente. Il servitore che gli avevano messo a dormire nella stanza accanto l'udì agitarsi e smaniare prima dell'alba. Ma siccome era avvezzo a quei capricci, si voltò dall'altra parte, fingendo di non udire. Infine, seccato da quella canzone che non finiva più, andò sonnacchioso a vedere che c'era. «Mia figlia!» borbottò don Gesualdo con una voce che non sembrava più la sua. «Chiamatemi mia figlia!» «Ah, sì signore! Ora vado a chiamarla!» rispose il domestico. E tornò a coricarsi. Ma non lo lasciava dormire quell'accidente. Un po' erano sibili e un po' faceva peggio di un contrabbasso nel russare. Appena il domestico chiudeva gli occhi, udiva un rumore strano che lo faceva destare di soprassalto. Dei guaiti rauchi, come uno che sbuffasse ed ansimasse. Una specie di rantolo che dava noia e vi accapponava la pelle, tanto che infine dovette tornare ad alzarsi, furibondo, masticando delle bestemmie e delle parolacce. «Cos'è? Gli è venuto luzzolo adesso? Vuol passar mattana? Che cerca?» Don Gesualdo non rispondeva. Continuava a sbuffare supino. Il servitore tosse il paralume per vederlo in faccia. Allora si sfragò bene gli occhi e la voglia di tornare a dormire gli andò via a un tratto. «Oi, oi, che facciamo adesso?» balbettò grattandosi il capo. Stette un momento a guardarlo così, col lume in mano, pensando se era meglio aspettare un po' o scendere subito a svegliare la padrona e mettere la casa sotto sopra. Don Gesualdo, intanto, andavasi calmando, col respiro più corto, preso da un tremito, facendo solo di tanto in tanto qualche boccaccia, con gli occhi sempre fissi e spalancati. a un tratto si rigidì e si chetò del tutto. La finestra cominciava a imbiancare. Suonavano le prime campane. Nella corte udivasi scalpitare dei cavalli e picchiare di striglie sul selciato. Il domestico andò a vestirsi e poi tornò a rassettare la camera. Tirò le cortine del letto, spalancò le vetrate e s'affacciò a prendere una boccata d'aria fumando. Lo stalliere, che faceva passeggiare un cavallo malato, alzò il capo verso la finestra. «Mattinata, don Leopoldo? Nottata pure!» rispose il cameriere sbadigliando. «M'è toccato a me questo regalo!» L'altro scosse il capo, come a chiedere che c'era di nuovo, e don Leopoldo fece segno che il vecchio se n'era andato, grazie a Dio. «Ah, così? Alla chetichella?» osservò il portinaio che strascicava la scopa e le ciabatte per l'androne. Degli altri domestici s'erano affacciati intanto e vollero andare a vedere. Di lì a un po' la camera del morto si riempì di gente in manica di camicia e con la pipa in bocca. La guarda rubiera, vedendo tutti quegli uomini alla finestra di rimpetto, venne anche lei a far capolino nella stanza accanto. «Quanto onore, donna Carmelina! Entrate pure! Non vi mangiamo mica! E neanche lui! Non vi mette più le mani addosso di sicuro!» «Zitto! Scomunicato!» «No! Ho paura, poveretto! Ha cessato di penare!» «Ed io pure!» soggiunse don Leopoldo. Così, nel crocchio, narrava le noie che gli aveva date quel cristiano. Uno che faceva della notte giorno e non si sapeva come pigliarlo e non era contento mai. Pazienza, servire quelli che realmente sono nati meglio di noi. Basta, dei morti non si parla. Si vede com'era nato, osservò gravemente il cocchiere maggiore. Guardate che mani. Già, sono le mani che hanno fatto la pappa. Vedete cos'è nascer fortunati? Intanto vi muore nella battista come un principe. Allora, disse il portinaio, devo andare a chiudere il portone? Sicuro, è roba di famiglia. Adesso bisogna avvertire la cameriera della signora duchessa. Fine del capitolo quinto. Fine di Mastro Don Gesualdo, di Giovanni Verga.